Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Le lobby che entrano in Parlamento, che versano da 1.000 a 5.000 euro al mese a senatori e parlamentari che siedono le commissioni più delicate. Parlare l'assistente di un senatore. Ci sono le multinazionali che ogni mese, per mezzo di un loro rappresentante, fanno il giro dei palazzi, sia al Senato che Camera, incontrano noi assistenti e ci consegnano dei soldi da dare ai rispettivi senatori onorevoli. Per quel che mi riguarda, conosco due multinazionali ed entrambe le agiscono una 1.000 euro e un'altra 2.000 euro ogni mese. Buste che gli stessi assistenti ritirerebbero incontrando nei bar vicini al Senato gli uomini delle multinazionali. Quelle che conosco io con il senatore di cui stiamo parlando, una è del settore dei tabacchi e un'altra nel settore dei videogiochi e delle slot machine. Non vi impressionate, non è una tesi che io voglio sposare o posso argomentare, un vecchio servizio delle Iene sulle lobby e parlamentari che va a alimentare quello che è un interesse generale nel cercare di capire quale sia in questo esatto momento, ma a livello mondiale una sorta di sottogoverno occulto, che è un po' l'idea che circola più frequentemente oggi, che ci siano grandi gruppi di potere, grandi interessi occulti che hanno questa sorta di stato oscuro che tutto governa e tutto condiziona. Si va dalle vulgate più facilmente leggibili e seguibili attraverso i social, che dietro tutto ci sia Bill Gates che vende vaccini, che ci fa mettere i microchip, che con il 5G diffonde il Covid. Adesso non so bene, esiste una griglia di lettura che fa tornare tutto, che parte da gli antichi complottismi fino alle forme più moderne per descrivere comunque c'è sempre qualcosa dietro la facciata e l'apparenza. Oggi non di questo voglio parlare, ma voglio partire proprio da questa base di incertezza nel definire chi veramente oggi possa determinare la chiave degli eventi che stiamo attraversando, proprio per non cadere nell'idea generalizzata che esistano i poteri occulti, le grandi lobby, le società segrete, i saggi e via dicendo. Oggi volevo proporvi una lettura che trovo originale dell'attualità, una lettura molto complessa, una lettura che richiederebbe degli strumenti di approfondimento molto raffinati. Ma oggi voglio fare una sfida, voglio sfidare un docente di relazioni internazionali all'Università di Torino di rendere intellegibile a un pubblico medio questo concetto che lui esprime nel primo di una trilogia di tre libri, che è quello di oicocrazia. L'oicocrazia sarebbe che non attraversiamo un momento particolare, vi dico come l'ho capito io e poi entreremo nel merito, in cui al centro di tutto l'universo della politica non è più il concetto di Stato, che è all'origine, diciamo, delle moderne democrazie, ma ci sia una sorta di gestione familistica, familiare. Oicocrazia viene da oikos, è un termine greco che significa la casa, la famiglia, l'appartenenza a un casato, ma anche naturalmente qualcosa che ha a che fare con la gestione del clan. Noi per clan intendiamo subito clan mafioso, ma in questo caso è qualcosa di più esteso, è qualcosa che non necessariamente ha a che fare con la criminalità intesa in senso classico, la criminalità di strada, con le compicrimini, delitti, rapine, truffe, spacci, con un'altra forma di gestione familistica comunque oggi dello Stato, che non è soltanto legata al nostro paese, ma è una tendenza generale che l'autore individua da un punto di discrimine fondamentale, che è l'anno 1989, che è l'anno in cui è con la caduta diciamo, di tutte le barriere del cosiddetto socialismo reale, si ripropone nuovamente il termine di cosa sia la democrazia, cosa sia il potere, cosa sia la gestione dello Stato. Professor Fabio Armao, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, professor Armao è l'autore dell'Età dell'oicocrazia, un nuovo totalitarismo globale dei clan, Multemi editore, il libro uscito a maggio-giugno, ma annuncia come il primo di una trilogia di libri. Fabio Armao è docente in relazione internazionale all'Università di Torino. Io ho cercato di riassumere in termini molto semplici e molto probabilmente sommari quello che è il suo pensiero, ma io le faccio subito una domanda. L'ha inventata lei? Lei è l'origine del termine oicocrazia intesa nell'accezione che la illustra in questi libri? O già esisteva questa idea che ci stiamo spostando a una sorta di gestione familistica del potere politico, dello Stato, di tutte le interfacce che possono stare dietro questo tipo di gestione? Certo, ma allora diciamo che da una parte esiste oramai una letteratura abbastanza consolidata, soprattutto devo dire nei paesi anglosassoni, sul processo di crescente, per esempio, privatizzazione della sfera politica, sulle degenerazioni della democrazia e così via. Su questo appunto c'è oramai veramente molta ricerca. Il termine invece oicocrazia l'ho inventato io, nel senso che è un neologismo che secondo me aiuta a spiegare in realtà, perché poi vuol dire semplicemente governo dei clan o potere dei clan. Certo, quindi, dirlo in Italia il termine clan non ha la stessa accezione può avere nel mondo anglosassone, questo lo capisce da solo, lo comprende subito. Dire infatti il mio problema è proprio cercare di far capire agli italiani che il clan non è solamente la mafia. E da questo punto di vista devo dire che lei ha fatto un'introduzione assolutamente chiarissima, ma voglio a mia volta specificare che parlare di potere dei clan vuol dire proporre un modello che è l'opposto del complottismo, cioè un modo per rappresentare la complessità del mondo reale attuale. Dal mio punto di vista il clan, che è sempre esistito, la forma di organizzazione sociale più antica che si conosca al mondo, è tornato in auge perché il mondo globalizzato è talmente complesso che richiede di nuovo l'intervento dei clan come strutture di intermediazione tra noi individui e le istituzioni, che siano istituzioni politiche, economiche o sociali. Quindi appunto vorrei insistere su questo punto: non ho una visione complottista del mondo, ho al contrario una visione estremamente complessa della realtà. Infatti quello che ho detto all'inizio, professore, se riusciamo questa mattina, il pubblico ci ascolta, può naturalmente intervenire per chiedere chiarimenti o per dire la sua su quello che stiamo dicendo, chiamando all'800240024. A me però è interessato il suo libro, essendo totalmente digiuno dalle nozioni fondamentali accademiche che servono poi per corroborarlo con degli approfondimenti. Però mi sembra interessante l'idea che lei bypassi tutti i punti di vista in questo momento più calcati, tutte le vulgate più usate. Lei tratta anche, questo libro l'ha fatto in epoca pre-Covid, mi sembra l'abbia scritto, quindi è totalmente privo di tutti i condizionamenti che possono esserci in questo momento particolare, che penso che lo tratterà nella seconda puntata, nel secondo libro che farà sull'oicocrazia. Però lei mette a punto alcuni elementi chiarificatori anche della situazione attuale, anche della nostra attuale sentire rispetto alla politica, la maniera di gestire comunque la gestione di questa emergenza, la maniera di trasformare in fatto politico quello che sarebbe semplicemente un'osservazione di alcuni comportamenti. Ieri ho visto in televisione un giornalista, un collega, poi era Porro, che si alzato, ha sbattuto, se n'è andato perché non era d'accordo con quello che diceva uno scienziato sulla gestione dell'emergenza Covid. E lo scienziato ha detto giustamente: scusate, ma perché la portate su un piano politico? Noi parliamo in termini razionali. Ecco, il portare su un piano politico alcuni fenomeni che in realtà dovrebbero essere affrontati non attraverso una lettura politica e quindi strumentale, quindi di dibattimento fra le parti opposte, vista la luce quello che dice lei, depotenzia tutto quello che sembra il discrimine fondamentale, cioè un pensiero conservatore, se vogliamo sovranista, se vogliamo di destra, contro un pensiero progressista e slabbrato nella sua, diciamo, non applicazione reale ma soltanto enunciazione di principi etici e morali, cosiddetto pensiero di sinistra. Lei dice, e vediamo se riesce a farlo capire bene ai nostri ascoltatori, la società è divisa in tre grandi sottosistemi: la politica, gli uomini che fanno politica, l'economia, coloro che hanno le leve del potere, e poi la cosiddetta società civile, che sono tutte le persone di buona volontà, io almeno l'ho intesa così, quelli di cui oggi potrebbero essere le Onlus, le ONG, le associazioni che si occupano di battaglie civili. Poi questi tre sottosistemi sono legati da una sorta di spirale che li lega. La società politica, attraverso gli strumenti di lobbying, è sostenuta dalla società economica, che a sua volta sponsorizza la società civile, che votando elegge la società politica. Ecco, riesce a far capire chi ci ascolta questo concetto in termini più chiari? Ci provo. Il discorso è questo, che appunto il mondo è diventato talmente complesso, probabilmente lo è sempre stato, ma noi siamo stati abituati a semplificare enormemente la realtà sociale. Allora, quel processo di privatizzazione di cui parlavo prima, processo di privatizzazione della politica, persino della guerra, perché se lei ci fa caso, oramai i conflitti non sono più tra stati nazionali contrapposti, ma tra una miriade di attori, quelli che noi chiamiamo gli attori non statali della violenza. Questo processo di privatizzazione ha fatto sì che le interazioni tra singoli gruppi delle tre sfere, appunto delle tre società politiche, economiche e civili, si siano intensificati enormemente. Lì nel libro parlo proprio di una sorta di vortice, e questo tra l'altro ha fatto venire meno i tradizionali confini della politica, cioè oramai i confini tra nazionale, internazionale, transnazionale sono saltati, ovviamente prima di tutto a livello economico, e questo risulta evidente a tutti, ma in realtà anche nelle dinamiche politiche. Pensiamo al fatto che una privatizzazione della politica anche nelle democrazie dei paesi più sviluppati, pensi agli Stati Uniti e pensiamo anche all'Italia, ha portato di nuovo al ritorno della cosiddetta leadership carismatica, cioè abbiamo sempre più bisogno di leader che in qualche modo riescano a instaurare un rapporto passionale, emotivo con le folle, ma questi leader hanno poi bisogno di una struttura di supporto. Il caso più lampante, più evidente, che stiamo vedendo oramai tutti i giorni sulla cronaca, è quella della leadership americana. Il presidente Trump governa con una parte della sua famiglia, intesa proprio come famiglia di sangue, come parenti, la figlia, il genero e così via. Ma questo si vede anche da noi, cioè l'indebolimento e poi lo smantellamento dei partiti di massa, dei partiti fondati su valori, ideologie, eccetera, ha prodotto questo crescente affidarsi appunto al leader carismatico. Ma il carisma ha dei cicli abbastanza appunto emotivi, pensiamo anche ai nostri uomini politici e alle carriere, diciamo, ai momenti di gloria che hanno avuto negli ultimi anni e poi ai momenti di declino. Lei analizzando questo sistema di propaganda, che è diffuso a 360 gradi, in questo punto mi astengo da analisi particolareggiate o da prese di posizione, lei dice è facile perché oggi appellarsi al popolo è l'elemento chiave del cosiddetto populismo, ma questo concetto di popolo è un concetto talmente vago, talmente impreciso, in cui tutti ci si possiamo gradualmente mettere dentro, ma è fatto apposta, ci si rivolge a una sorta, si dice la sovranità del popolo, il popolo deve decidere, voi non capite il popolo, dovete comprendere che il popolo è altra cosa rispetto a quello che è, non so, nelle terrazze, nei luoghi in cui si discute nei partiti politici tradizionali. Ma questo concetto di popolo, in cui è talmente a maglia larga, tutti possiamo rivederci, professionisti, operai, disoccupati, persone che hanno comunque solide circostanze e professioni, è fatto apposta, non c'è più una definizione generale, è qualcosa che appartiene ad antiche suddivisioni della società parlare oggi di popolo. Lei ha assolutamente ragione. Allora, appellarsi al popolo è diventato l'unico modo per questi leader per rivendicare in qualche modo la propria legittimità, ma questo va fatto con ovviamente delle parole chiave, dei concetti che abbiano facile richiamo appunto sull'opinione pubblica, e questo ha attenuato enormemente, confonde estremamente i confini anche adesso tra le vecchie categorie di destra e sinistra. Però lei ha usato un termine ancora più chiaro, che è quello di propaganda. Allora, il problema è questo: se noi privatizziamo la politica, se ci affidiamo sempre di più a leader carismatici che si contornano di seguaci, appunto questo è il clan, questi leader avranno bisogno di risorse, di finanziamenti e di economia, di cui anche i processi di crescente, diciamo, clientelismo barra corruzione politica, gli esempi che si facevano anche nel servizio con cui avete introdotto la trasmissione, cioè l'intervento delle multinazionali e così via. Mi permetta soltanto un'osservazione: quando io sento parlare di videogiochi, slot machine, eccetera, tremo, perché questo tra l'altro è uno dei settori fondamentali di finanziamento delle organizzazioni criminali mafiose. Ma fermiamocela, professore, visto che il concetto è delicato e complesso, e non volevo interromperlo proprio in un momento cruciale. Ci fermiamo solo un momento, dobbiamo dare la linea alla borsa, poi riprendiamo. A tra poco. Melog. Ringrazio Gianmarco Ferronato che mi manda in onda da Milano, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrera, Fabrizio Intonti che mi supportano da Roma. Oggi una trasmissione molto complicata, ma l'ho fatta proprio per sfida di voler ogni tanto tentare di volare alto nella frenesia di decodifica, semplificazione, burlettizzazione totale di ogni complessità che oggi naturalmente è molto più appagante. Ho in collegamento il professor Fabio Armao, che è docente in relazioni internazionali all'Università di Torino, ha scritto il primo di una trilogia di libri, L'età dell'oicocrazia, il nuovo totalitarismo globale dei clan, editore Molteni. Ha coniato e messo a punto un termine nuovo, originale, che in qualche maniera spiega una mutazione radicale della concezione e del rapporto fra politica, Stato, cittadini, potere economico, che va oltre le suddivisioni che oggi sembrano creare una dialettica molto basica ma molto frequentata, conservatori contro progressisti, sovranisti contro globalisti. Lui con il termine oicocrazia dice che in realtà la formula che oggi, ma non soltanto a livello nazionale ma a livello globale, si sta sovrapponendo e sostituendo all'antica dialettica che valeva finché valeva la politica dei grandi blocchi, delle grandi democrazie, delle grandi tirannie e via dicendo. Democrazie si basavano sul fatto che hanno un grosso nemico, o contro il comunismo, contro il fascismo, contro il nazismo, si basava su un nemico. Essendosi dissolto in generale l'entità di un grosso nemico, si dissolve anche un po' il concetto di democrazia tradizionalmente intesa e nasce l'oicocrazia. Comanda il clan, ma in senso arcaico, in senso antico, in senso di organizzazione familiare, che difende gli interessi della famiglia prima degli interessi generali. Alle nostre latitudini il concetto di clan è un concetto anche abbastanza ambiguo, perché si muove nell'ambito del clan mafioso, ma ci sta spiegando il professor Arnao che il concetto di clan va esteso anche ad altre realtà. Volevo prima ascoltare un ascoltatore coraggiosissimo che vuol fare una domanda. Luigi, buongiorno. Buongiorno, salve, sempre complimenti per il lavoro che svolgete. Io in merito al libro del dottor Arnao, Totalitarismo globale dei clan, vorrei sapere questo quanto può essere calzato alla situazione attuale che sta emergendo sull'inchiesta che riguarda il caso Palamara. Cioè, la magistratura quanto può essere influita da questa, se ho capito bene, orocrazia? No, la domanda è pertinente. Lei dice: in questo momento vediamo una sorta di disallineamento tra quelli che sono i confini sacri delle varie entità che gestiscono separatamente i loro poteri. Cioè, prendendo lo spunto da questa situazione italiana, appunto il caso Palamara, quanto questo può essere letto senza entrare negli specifici di una inchiesta che è ancora aperta, di cui si sa ancora parzialmente la realtà processuale, quanto questo può rientrare in un concetto di oicocrazia? Vediamo, professore, parte con una domanda precisa. Sì, sì, ma cerco di dare una risposta precisa, anche appunto non entrando neanch'io nel merito della vicenda. Però l'esempio è interessante, secondo me è congruente. Quando noi parliamo, appunto, quando parlo di processi di clanizzazione che investono la politica, l'economia, eccetera, certo si può fare riferimento anche a questo tipo di fenomeni. Il clan è caratterizzato da alcuni aspetti fondamentali. Innanzitutto, appunto, come dicevo prima, c'è il leader del gruppo, ma l'altro elemento fortissimo è la capacità di creare delle vere e proprie fidelizzazioni, per cui si creano delle reti interpersonali. La vicenda Palamara è esemplare da questo punto di vista, perché se voi ci fate caso si basa su relazioni tra individui, tra persone che in qualche modo si parlano, si incontrano al ristorante, al bar, eccetera, per ottenere determinati scopi. Questo tipo di dinamiche sono oramai talmente frequenti, ripeto, in tutte le sfere, che appunto non possiamo ignorarle, non possiamo pensare che la politica sia ancora sempre soltanto. Le faccio un altro esempio che è attualissimo: la frattura nell'ambito di un movimento che sembrava aver dato una svolta totale alla politica nazionale, che è il Movimento 5 Stelle, e il caso Casaleggio, il caso della gestione comunque della piattaforma Rousseau, una persona che in realtà è un imprenditore privato che in questo momento comunque a tutti gli effetti, giocando su un carisma enorme, Casaleggio è una dinastia. Casaleggio figlio gestisce la piattaforma Rousseau e la sua parte di 5 Stelle perché è figlio di Casaleggio padre, che è una sorta di passaggio dinastico, lo dico senza nessun tipo di pregiudizio, solo come osservatore. Certo. Rientra anche questo, diciamo, nella sua osservazione? Sì, ma tutte le dinamiche politiche, in particolare i cerchi magici, ecco, mettiamoci anche i cerchi magici che toccano altre realtà, certo, sì, sì. Infatti, tutto sommato, prendo atto di qualcosa che esiste già, il giglio magico, il cerchio magico, eccetera, sono espressioni che inconsapevolmente rinviano esattamente a questo tipo di fenomeno, cioè al clan. E il problema del clan però qual è? Che poi esistono all'interno di una struttura più grande come può essere un partito, l'esempio del Movimento 5 Stelle che faceva lei, gli schieramenti tendono a fidelizzarsi e a seguire quindi uno dei leader presenti. L'effetto quale sarà? Sarà quello di una crescente dinamica conflittuale, questo l'abbiamo visto all'interno del PD, adesso lo stiamo vedendo all'interno del Movimento 5 Stelle, che ricalca, io uso un termine un po' forte, ma per intendersi, che ricalca le dinamiche della faida. Dove però la logica del clan è che a prevalere nel clan è un concetto tribale, è il maschio alfa, detto in parole molto semplici, cioè è la persona più forte, più potente, che maggiormente sa gestire il potere. Non è un principio basato sul consenso generale, sull'esposizione un programma. Se noi diciamo la società oggi si organizza attraverso clan, poi dopo nell'ultima parte mi dirà se questo è un processo irreversibile, va visto con un'accezione negativa o un naturale evolversi, diciamo, delle forme di gestione dello Stato in questo momento. Ecco, prevale sempre la persona che apparentemente ha più carisma e quindi più forza. Sì, ha più carisma, più forza e attenzione, anche più risorse. E qui rientra il discorso, come dire, risorse vuol dire posti di potere, prebende per i suoi seguaci, cioè per le persone. Sì, sì, può essere tradotto nel termine volgarissimo, quello che ce l'ha più lungo, che alla fine quello è il maschio alfa, è quello che c'ha, che gestisce una più vasta area di possibilità di intervento e di gestione e di massa umana che controlla. Assolutamente, il patrimonialismo, per usare un termine diciamo accademico, è uno degli elementi imprescindibili di questo tipo di dinamiche. Se tu vuoi controllare il tuo clan devi essere in grado di fornirgli delle risorse, che vuol dire posti, soldi e così via, cariche istituzionali o meno. Allora, ci fermiamo ancora, professore, nella terza parte di questa missione, però lei, visto che abbiamo già abbastanza sviscerato il problema per quanto è possibile decodificarlo in 20 minuti a un pubblico radiofonico che fa anche altre cose mentre ci ascolta, questo voglio che lei mi risponda: è un processo irreversibile, è un processo globale, è un processo che radicalmente cambierà tutte le nostre, i nostri pregiudizi, i nostri preconcetti, i nostri condizionamenti rispetto a quella che è la suddivisione del potere, dell'orientamento ideologico e politico, oppure è qualcosa che da un certo punto di vista merita una sorta di rivolta, di azione di ripristino. Insomma, andrà avanti così, e di questo dovremo, con questo dovremo avere a che fare da qui in futuro, o esisterà un momento in cui anche questo sarà messo nuovamente in crisi e cambierà ancora nuovamente la situazione. Ci fermiamo un istante. Melog. Allora, avevo lasciato sospeso una domanda al professor Fabio Armau, che ha oggi illustrato in termini più semplici possibili il suo concetto di oicocrazia, il governo dei clan. Ecco, una volta capito che per clan non si intendono i clan mafiosi, per clan si intende ogni organizzazione che basa su una sorta di omogeneità di territorio, di appartenenza, ma anche di sangue, diciamo, perché alla fine anche questo, il proprio potere. E visto che questo ormai trasformerà anche il concetto di crimine, lei dice che il clan dell'oicocrazia si distingue per altri tipi, diciamo, di azioni che tendono piuttosto allo sdoganamento e al depotenziamento di pregiudizio sociale rispetto, non so, l'evasione fiscale, la gestione dell'ambiente, tutte cose che lentamente creano dei danni alla società ma vengono depotenziate come aspetto criminale. Non sono le rapine, gli assassini, i furti, via dicendo, ma sono altri comportamenti illeciti, visto che tutto viene privatizzato e il privato naturalmente ha meno interesse nel gestire la cosa pubblica nell'interesse comune, ma l'interesse di clan. Ecco, ma tutto questo ci porta a considerare ormai dei residui del passato, delle reliquie da festa di proloco che fa il Medioevo fantastico nelle piazze dei paesini, delle città d'arte, tutto quello che è il passato, destra contro sinistra, rievocazione degli spettri delle passate dittature, rilancio delle battaglie sociali, tutto questo ormai è un fardello che fa parte di un passato. Dovremmo concentrarci più su questa nuova suddivisione della società e del potere nella società? Ma in parte sì, ma spiego il mio pensiero. Allora, lei prima parlava di processo globale e processo irreversibile. Processo globale, sì, assolutamente. La caratteristica di questo tipo di evoluzione clanica è tale per cui la ritroviamo in Russia, in Cina, negli Stati Uniti, in Italia. Quindi è una sorta di oicocrazia, la vedo come una sorta di regime trasversale che si adatta a qualunque tipo di sistema politico. È un processo irreversibile? Assolutamente no. Allora, la storia evolve dal mio punto di vista come in una spirale. Adesso noi stiamo assistendo appunto al ritorno dei clan, perché sono funzionali a gestire alcuni aspetti della globalizzazione. Ma questo processo può assolutamente cambiare, così come i clan erano stati sconfitti nell'antichità dalla nascita dello Stato moderno, e poi anche dall'affermarsi del sistema capitalistico, che ovviamente non poteva convivere con organizzazioni di tipo clanico perché aveva bisogno dell'imprenditorialità individuale. Noi possiamo immaginare che ci sarà un'ulteriore evoluzione, potrà consistere nella riscoperta, io mi auguro, della democrazia intesa nel senso originale e autentico di regole, procedure, istituzioni, quindi non parole, ma appunto procedure e rispetto di una serie di lei scrive, lo interpreto in maniera molto libera, che una democrazia che si fonda soltanto sull'individuazione di un nemico, alla fine è una democrazia che ha già perso i suoi puntelli fondamentali. Esatto, assolutamente. Cioè, uno dei punti forti della democrazia è o dovrebbe essere la capacità di compromesso, che non vuol dire, come dire, cedere le armi, assolutamente no. Il compromesso è una metodologia estremamente complessa che significa risolvere in maniera non violenta conflitti che all'interno del mondo sociale sono assolutamente inevitabili. Per cui questo può essere un'evoluzione. sarà necessaria secondo me anche un'azione dal basso, cioè una riscoperta, lei usava il termine rivolte, io lo condivido abbastanza, cioè ci deve essere una capacità dal basso di ricostruire il tessuto sociale. Soprattutto aspetta un attimo, professore, qui le faccio una domanda, ma la rivolta o la rinascita comunque di forze dal basso non potrà che basarsi sempre sullo stesso principio dei clan, o sbaglio? No, in realtà il principio dei clan va smantellato, può essere smantellato soltanto da altri tipi di organizzazione che per esempio non si affidino a leader carismatici, che pratichino sistemi di trasparenza. Lei all'inizio faceva l'esempio delle organizzazioni non governative, secondo me è un buon esempio. Se un'organizzazione non governativa... Non a caso sono state nel mirino di battaglie ideologiche fortissime, con tutti i limiti che possono esserci stati in certe operazioni, però è stato certo L'equivalente di organizzazione mafiosa che sfrutta la tratta degli immigrati a fini economici o propagandistici o per cambiare la conformazione genetica di un paese. Adesso sono tante le idee che possono esserci. Certo, ma questo fa parte dell'impoverimento del linguaggio di cui parlavamo prima, cioè si riduce tutto a propaganda. Allora, se le organizzazioni non governative seguono determinati criteri, per esempio la trasparenza dei loro bilanci, la trasparenza dei meccanismi di costruzione appunto della leadership, eccetera, sono l'opposto del clan e quindi possono avere un effetto assolutamente positivo nel tentativo di smantellare Questo tipo di sistema. E se ho tempo vorrei soltanto chiudere proprio sull'aspetto della criminalità organizzata, perché anche qui c'è la tendenza a pochi dire, secondi, a pochi secondi, se è un concetto può sintetizzare in pochi dire secondi. Che semplicemente in una battuta che la criminalità organizzata ha avuto la fortuna di trovarsi nel momento giusto al posto giusto, cioè avendo una lunga tradizione di organizzazione clanica, adesso in qualche modo beneficia dell'evoluzione clanica degli diciamo è la prima che ha messo a punto e sperimentato il modulo che in questo momento è il modulo vincente. Guardi, è interessante questo, tornerò a parlare con lei e aspetto la seconda puntata della sua riflessione. Alla prossima. È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.